Dopo il notiziario. Welcome to the future. Southside. Hello everybody and very welcome to Southside. Questo lunedì pomeriggio you're listening to Kiss Kiss Network e saremo insieme fino alle ore 19 e in sottofondo sento un brano che forse conoscete bene, sembra Tainted Love però invece è un bel remix, è Mark Rough Rider with Joy, un versione two-step. Bring me love and you bring me joy. I grab a girl, I grab a boy. To the rhythm of Becca, who's in the mic, I'm a lyric attacker. Special MC that gets the crowd hype up. Beats and bassline, come and take a bus selector. To the rhythm of Becca, who's in the mic, I'm a lyric attacker. Special MC that they come and they get ya. Beats and bassline, come and take a bus selector. Oi oi, oi oi, and you bring me love, and you bring me joy. Oi oi, grab a girl, grab a boy. To the left, to the right, we're coming down, we're coming inside. Just up on the time I walk in my manner, I come across a bad boy selector. What's your name? It's the Rough Rider. How about now we get you on? Once upon a time I walk in my manner, I come across a bad boy selector. What's your name? It's the Rough Rider. How about now we get your eye pass on shining? We come together, roll at the track to get the crowd eye pass. Bring out the joy and love in your area. This tune, rewind selector. I can't hear your rewind selector. Got to reload this tune of fire. Oi oi, and you bring me love, and you bring me joy. Oi oi, grab a girl, grab a boy. To the left, to the right, we're coming down, we're coming inside. This is the sound of. Bring me love, and you bring me joy. I grab a girl, I grab a boy. Oi oi, oi oi. Sound of the Strictly Underground. We're in your town. Check this out. Don't stop, just keep dancing. This here tune's got the body pumping. All the ravers left, right and center. Wicked tonight, cannot forget ya. DJ rinse and get the crowd hyper. Feel the joy as we come together. Ride the roll, the beats with the flavor. Special on the mic for the raver. You bring me love and you bring me joy. Mark the Rough the Rider. Special MC, we get you freaky, we get you freaky. Feel the joy inside the place. Two-step beats, wickedest bass. Network. Here we are again. Now the skies of the city are unclean, and there ain't no stars out to be seen. All that luster must have lost its glow. We'll be right back. the twinkle in the sky. That's the voice of Tim Finn on Southside. Tim Finn, fratello di Neil Finn. Una volta nel Split Ends e poi in Crowded House, ma adesso avendo molto successo come solista, e questo è Nuova Zelandia. Allora, andando avanti con la musica, questi sono i Gorillaz, praticamente il primo gruppo virtuale che esistono. Come cantante c'è 2D, comunque il suo vero nome è Damon Albarn, e c'è anche James Hewitt del Tank Girl. This is Clint Eastwood. I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, pretty close with the car. Oh, when them see me new Rolex, start to get this hot and fix. So me got some old Babylon, a cup of ingredients. Oh, them all a watch ingredients. Oh, you see diamonds and pearls. Oh, them all a watch red rose girls. Oh, come on, we making money. Oh, Babylon a chat to me funny. Oh, you see the Lexus deep, start to get this hot and weak. So me got some feel my motion, feel my motion. Music is from the sea, designed to make you move your feet. Feel my motion, feel my motion. No. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on. Feel my motion. Music is from the street, designed to make you move your feet. Feel my motion, feel my motion. Na na na, na na na. Oh, you wanna make no dough. Oh, Babylon, David, where we go. Oh, you wanna live like that. I'm pretty close with the girl. Come and go to oh. I'm useless, but not for long, the future is coming on. I ain't happy, I'm feeling glad I got sunshine in a bag, I'm useless, but not for long, the future is coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on, it's coming on. Hot Time. Giuliani. Salute, benessere e bellezza. In questo comunicato parliamo di benessere. Io al mattino? Una fatica. Comincio a svegliarmi alle 11. In ufficio mi chiamano marmotta. Fonwan Rosso Ginsenergy Giuliani. Dalla tradizione cinese, tutta l'energia positiva del ginseng. Fonwan Rosso Giuliani, preso al mattino, dà la carica giusta per affrontare bene la giornata. Chiedilo in farmacia. Giuliani. Siamo quelli dell'amaro. Kiss, kiss. ABS. Cinture di sicurezza, servo sterzo, doppio airbag, barre laterali, pneumatici, lisci. Per guidare sicuri, la prima cosa sono i pneumatici. Dal 1 al 30 aprile i controlli sono gratuiti dai gommisti che aderiscono all'iniziativa Pneumatici sotto controllo. Vai su www.pneumaticisottocontrollo.it. Controlla i tuoi pneumatici, perché tu non sei di gomma. Yes, yes. La Columbia TriStar Films Italia presenta Ci sono corpi votati alla fedeltà. Se io amo una donna, le altre, quelle, le altre non le guardo, non esistono! Ci sono corpi nati per l'azione. Se ci avessi da lavorare, domani sta carna crua. E poi c'è lei. Luna! Nicola Pistoia, Pino Amendola, Megan Gale, Maurizio Casagrande, Maurizio Aiello e Maria Grazia Cucinotta in una divertente commedia dove niente finisce come era iniziato. Stregati dalla Luna, nei cinema. Quello è un tipo di donna che se rimane da sola con me si uccide. Kiss, kiss. Dunque, ragazze, le nostre macchine sono parcheggiate a un chilometro da qui. Sì, non appena marito e figli si sono addormentati, ci ritroviamo tutte davanti al bar. Bene, mi raccomando, non lasciate recapiti. No, no, non fiatate. Sì. E toglietevi le scarpe per le scale. Se avete bisogno di evasione, da oggi su ilnuovo.it c'è Tabloid. Tutto, ma proprio tutto sui protagonisti della TV, del cinema, della musica e della moda. Con interviste filmate aggiornate in tempo reale. Tabloid, l'evasione a portata di mouse. Solo su www.ilnuovo.it. Ma tu a tuo marito gli hai detto che fuggi? Sì, sì. E devo dire che l'ha presa molto bene. Schia. Che carino e che grande, ma è buono. Le assicuro che è dolcissimo. E suo com'è? L'ho appena preso nel mio supermercato, è freschissimo. La freschezza non basta, anche la cortesia è importante. Allora vogliamo parlare della convenienza? Su questo argomento non temo confronti. Io l'ho preso da GS, ma anch'io. Buona Pasqua a tutti, dai supermercati GS. L'uovo l'ho rotto. Lo dicevo che era buonissimo. GS sa cosa voglio. Dai ragazzi che metto il film. Ci siamo? Uffa, vado io. Per una serata ancora più croccante, partecipa al grande concorso Blockbuster Pringles. Aggiungi un tubo di Pringles al tuo noleggio e puoi vincere subito un TV Color al plasma, tre lettori DVD e centinaia di noleggi gratuiti. Blockbuster. When the night... Blockbuster. Sempre più film, sempre più copie. Make it a Blockbuster night. Admin Rick. Yes, yes. Come deve essere l'acqua che beviamo? Secondo me deve essere pura e leggera. Secondo me deve essere pura e controllata. Deve essere da bere, buona da bere. Nasce l'acqua Parmalat, l'acqua da bere. Pura e controllata perché microfiltrata. Acqua Parmalat, acqua da bere. Southside. Southside. Southside. Southside. Don't you let nobody stop you on the dance floor. And we come round and the DJ spin hardcore. From the UK and we don't play. Gotta send props to the DJ. You know you've got to get on down. Something good. E se voi volete che io vi suono, vi faccio sentire qualcosa di bello, basta scrivermi a mio indirizzo email fergal@kisskissnetwork.it. And you're listening to Southside. Adesso arrivano Shivery e questo è praticamente un brano bossa nova che è stato descritto dal rivista NME come resurrezione del ghost di Mazzy Star, che è un compasso pure trip hop. Isn't this fun? You're gonna shoot, and our darling loaded the gun. talking to you again. A good joint the marine. And then I will peacefully sail away with some safe magazine. Did you hear what I say? You can't fall down the stairs two times the same way. Luckiest girl. From the moon, sensibility tells me that this is too soon. Oh, my bones are there. I'm the luckiest girl. Give me your love, and I'll give you the perfect love song with a divine Beatles bass line and a big old Beach Boys sound. I'll match you pound for pound, like Perry waits in the final round. We'll hold on to each other so we don't. One kiss, I will whisk you away to where angels often tread. We'll paint this planet red. We'll stumble back to our hotel bed. We'll make love to each other till we're half dead. Maybe now you can see. Yeah. That's the Divine Comedy, la voce di Neil Hannon, praticamente un irlandese del nord, bellissimo. Il brano si intitola Perfect Love Song, cioè un brano di amore perfetto. È bello, sì, però uno che è forse più perfetto è questo che stiamo sentendo adesso, Wonderwall degli Oasis. Praticamente ogni lunedì guardiamo un po' la storia di una canzone. Allora è stato scritto da Noel Gallagher, che è stato ispirato sia a sua moglie Meg, anzi ex moglie ormai purtroppo, è un titolo di George Harrison. It's gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it down. What is what, but they don't know what is what. They just strut, strut, strut, strut. What the f***? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f***? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f-? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just strut, strut, strut, strut, strut, strut, strut, strut. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f-? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the f-? They know what. what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what they know, what they don't know what is what. They just strut. What the strut? They just strut, strut. They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just know what is what, but they don't know what is what. They just know what they know, but they don't know what they know. They just strut. What the? What is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? They know what is what, but they don't know what is what. They just strut. What the? Mi fa ridere proprio what, perché io so che sta per dire Fatboy Slim quando dice what the. Praticamente l'impressione originale è stato centralizzato in Inghilterra, perciò questa è la versione pulito, diciamo. Fatboy Slim and Star 69, bello questo se siete in movimento a ballare in questo momento. E dalla Francia arriva un altro gruppo che fanno tutto ballage eccetera. Sto parlando di Grand Popo Football Club e loro sono un duo, uno di loro è un presentatore su televisione e l'altro è un grande DJ, eccoli qua. Grand Papa Football Club and Each Finger Has an Attitude. La Micra Glamour, deliziosa, è un piacere guidarla. Così trendy negli interni, così in vista nei colori, così contenuta nei consumi. La Micra Glamour è una sensazione da provare a lungo. E da oggi su tutta la Micra il climatizzatore è incluso nel prezzo. Se non avete un'auto da rottamare, ma se al fresco non vi interessa e volete rottamare la vostra vecchia auto, la Micra è vostra. Tenetevi forte da 16.200.000 lire. Che interni, che colori, che fresco, nuova Micra Glamour, chiedi a chi una Micra ce l'ha già. And on Southside, continuiamo con la musica. The Three Amigos è il nome del gruppo. Il brano si intitola 25 Miles 2001, cioè 25 mile nel 2001. Tanto da camminare, tutti insieme. Southside. Here we go. Ramesses, Colossus. Ramesses, Colossus. Ramesses, Colossus. Ramesses, Colossus. Indigo, here we go. Indigo, here we go. Give the gong a bang, but both of the books out as you can. You only ever seem to can the can. You only wanna be a new garage band. You know you wanna give the gun a man. But nothing ever works out as you plan. You only ever seem to can the can. Indigo, here we go. Indigo, here we go. Indigo, here we go. Indigo, here we go. Magari lo stanno dicendo a Firenze tutti i fiorentini. Indigo, viola, vabbò, è molto loco. Pubblicità per noi. Spot time. ABS, cinture di sicurezza, servo sterzo, doppio airbag, barre laterali, pneumatici. Lisci. Per guidare sicuri, la prima cosa sono i pneumatici. Dal 1 al 30 aprile i controlli sono gratuiti dai gommisti che aderiscono all'iniziativa Pneumatici sotto controllo. Vai su www.pneumaticisottocontrollo.it. Controlla i tuoi pneumatici, perché tu non sei di gomma. Portofino, sole, mare e un turismo d'eccezione. Cosa penseranno palati così raffinati di Viscas Piccole Bontà? I deliziosi pasti completi in busta per gatti? Pare che siano vere prelibatezze. Signore, lei non trova? Però, e lo sa che può scegliere tra moltissime varietà? Scambierebbe due lattine con una busta di Viscas Piccole Bontà? Ok, stavo scherzando. I gatti comprerebbero Viscas tutti i giorni. Yes. Tesoro, ti piace il mio regalo? Oh, beh, sì. Oh, scusami. Sì? Tutto ciò che posso offrirti è questo. Quello che abbiamo ora, solo questo. Autumn in New York. Richard Gere, Winona Ryder nella più romantica storia d'amore dell'anno. Oggi a noleggio da Blockbuster. Porta a casa l'emozione del grande cinema. È bellissimo! When the night... Blockbuster. Sempre più film, sempre più copie. Make it a Blockbuster night. Yes. Fragola Paolo. Pesca? Luca. E ciliegia? Beh, ciliegia Andrea. E arancia? Ah, l'arancia bacerei sicuramente Marco. Nuovo Labello frutta. Arancia, ciliegia, fragola e pesca. Dolce, colorato e profumato. Labello, labbra da baciare. Yes. Cristina, 30 anni, stilista. Magnifici vestiti e un conto corrente ridotto uno straccio. Sì, ma adesso ne ho uno nuovo che mi calza a pennello. In un anno, 100.000 piccoli imprenditori hanno scelto Imprendo, il conto tutto compreso a costo fisso. Con Imprendo hai operazioni illimitate, tanti vantaggi e un servizio clienti su misura. Imprendo lo trovi solo nelle banche del gruppo Unicredito Italiano. Informati 800-881177, www.imprendo.it. Automin Rick, scade il 31/12/2001. Southside. It's a rough road. Die, and I, oh, Jaja. Oh, it's a rough road. As I trod along, guide I, oh, Jaja, with thy mighty hand. It's a rough road, and I have to make my footsteps sure. Oh, yes, it's a rough road. As I trod along, guide I, oh, Jaja, with thy mighty hand. It's a rough road, and I have to make my footsteps sure. To be strong, not to pick up the gun. My daddy, he died, and my mama, she tried. Many nights on her knees, I hear she prayed and cried. I had to leave school from a primary age. Learn how to survive on the front page. Gain my experience on the sidewalk. Through the valley of the shadow, many times I walk. It's a rough road. As I trod along, guide the youth with thy mighty hand. It's a rough road, and I have to make my footsteps sure. As I trod along, guide the youth with thy mighty hand. It's a rough road, and I have to make my footsteps sure. Oh, yeah. What the youths need now is guidance and love. Teach them the right and they will be strong. It's a rough road, so as I trod along, guide the youths with thy mighty hand. It's a rough road and I have to make my footsteps sure. Oh yes, it's a rough road, so as I trod along, guide the youths with thy mighty hand. It's a rough road and I have to make my footsteps sure. Oh yes, the words I say and the prayers I pray, it's not for me alone, but for everyone. It's a rough road, so as I trod along, guide the youths with thy mighty hand. It's a rough road and I have to make my footsteps sure. Oh yes, give ear to my words, oh Jaja, consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto thee will I pray, my voice shall thou hear in the morning. Oh Jaja, in the morning I will direct my prayer unto thee. It's a rough road, so as I trod along, guide the youths with thy mighty hand. It's a rough road and I have to make my footsteps sure. Boy, it's a rough road, so as I trod along, guide the youths with thy mighty hand. It's a rough road and I have to make my footsteps sure. From living by the gun, what a terrible game. Experience teaches me something God I can't see. I'm working on a hoping for a shiny day. It's a rough road, so as I trod along, guide the youths with thy mighty hand. It's a rough road and I have to make my footsteps sure. Boy, oh, it's a rough road, so as I trod along, guide the youths with thy mighty hand. It's a rough road and I have to make my footsteps sure. That's President Brown on Rough Road on Southside. Allora ragazzi, siamo arrivati all'appuntamento di quello che è successo questo giorno nella musica, nella storia. Allora siamo al 9 aprile, torniamo indietro solo 3 anni e troviamo nel 1998 George Michael è stato arrestato nel Will Rogers Park per comportamento oscena dentro un bagno pubblico. Eccolo con Wamra. Hey, everybody take a look at me. I've got street credibility. I may not have a job but I have a good time. But the boys that I meet down on the line said, I don't need you. So you don't approve, but who asked you to? Hey! Hey, jerk, you work. This boy's got better things to do. Hell, ain't never gonna work. Get down in the dirt. I choose to cruise. Gonna live my life sharp as a knife. I found my groove and I just can't lose. Ain't one side from head to toe. Cool cat flash gonna let you know. I'm a soul boy. Yeah. Listen to a new radio station. A new sound. Southside. Southside. Quello che avreste voluto sempre ascoltare. Mamma mia, ma in Scandinavia sono messi proprio bene per la musica, sembra che escono sempre delle belle, belle pezze, ci sono quelle cose commerciali, però ci sono pure questa musica di qualità. Questi mi pare sono svedese, però della Scandinavia sicuramente, si chiamano Solomon e il pezzo si intitola Love. Allora ascoltiamo 27 Women with La Honda. 27 women never made a man out of me. Southside. Southside. Oh. Yeah. Coming down, new sound, you should be thankful. 30 rips, 30 beats, and 30 samples. Yeah. Sell our shows, take the money, then we cancel. Front rows, back rows, get it trampled. Yeah. Coming down, new sound, you should be thankful. 30 rips, 30 beats, 30 samples. Yeah. Sell our shows, take the money, then we cancel. Front rows, back rows. What? Before we just left the scene alone, got some front page headlines and just ran from out the zone. You're mad? I think you have trouble understanding what it takes to fly the globe and keep the crowds demanding. More of the type of the beats you felt, kind of smoothness you associate to cream that melts all over tracks. Distinctive patterns are created, like an emblem on the grill that says it's highly rated. You figured it out? How much energy when we lash it out? How much goes into a station when we move and bash it out? Iron them out. It's no coincidence we're up here. It's not a lucky team who had a lucky run and cup year. Coming down, new sound, you should be thankful. 30 rips, 30 beats, and 30 samples. Yeah. Sell our show, take the money, then we cancel. Front rows, back rows, get it trampled. Yeah. Coming down, new sound, you should be thankful. 30 rips, 30 beats, 30 samples. Yeah. Sell our show, take the money, then we cancel. Front rows, back rows. You can't buy a stretch card and jump it this hard and bust the kind of moves that cuts a bone and leave you scarred. Then store behind the picture, stay behind the faces. Take a look around, see who leads and who chases. Advancing, I don't care how you feel, just keep dancing. You heard me? I jump an extra tight and flow superbly. That's Dirty Beats, it's the Ronnie Size Represente. Questo conclude questa ora, questo 60 minuti di Southside, questo lunedì pomeriggio. Voglio ringraziare a Roberto Bottone per il suo maestro, il suo tecnico, e voglio ringraziare tutti gli ascoltatori di Radio Kiss Kiss Network. Thank you questo pomeriggio. E saluto a Greg che sta arrivando dopo le notizie. Ragazzi, appuntamento alle 18 domani. Southside. Southside. Per un'ora Virgo si proietta nelle nuove tendenze. Sono le 19, l'appuntamento con l'informazione. News.